Giornale radio del Friuli Venezia Giulia. Caso Resinovic, il GIP si riserva la decisione tra archiviazione o riapertura indagini. Le parti chiedono una nuova perizia legale. La decisione arriverà tra fine settimana e inizio prossima settimana. Tappa dell'Ussari, un successo. L'anno prossimo il Giro d'Italia potrebbe attraversare la regione. Resta il nodo della strada chiusa. 50ª giornata mondiale dell'ambiente, collaborazione transfrontaliera antiplastica tra Muggia e Ancarano. Una patente per usare con misura e senza rischi lo smartphone. L'hanno già ottenuta 125 adolescenti a Pordenone. Calcio nell'ultima di campionato. L'Udinese perde in casa per 1-0 contro la Juve, ma si disegna la squadra di domani. Basket playoff a Forlì, gara 2 tracollo per l'Apo Udine ed è la seconda sconfitta. Si gioca tutto mercoledì a Carnera. 12:31, buongiorno da Maria Spezia, Rita Amicoli. Archiviazione o ulteriori indagini, questa era la decisione attesa per oggi a Trieste sul caso della morte di Liliana Resinovic, la donna trovata senza vita un anno fa, avvolta in sacchi di plastica nel parco di San Giovanni. Il giudice però si è riservato la decisione. L'udienza è finita poco fa e le parti hanno chiesto una nuova perizia medico-legale. Il giudice deciderà, sembra, tra fine settimana e inizio della prossima. Sotto una pioggia battente manifestano davanti al Tribunale di Trieste con striscioni e fotografie della loro Lilli, parenti e amici di Liliana Resinovic. È il giorno dell'udienza preliminare nella quale il giudice Luigi Dainotti dovrà decidere se archiviare il caso come ha chiesto la procura o disporre ulteriori indagini come richiesto dai familiari della donna, che non accettano l'ipotesi del suicidio. Silvia Radin, cugina di Liliana. Conoscevo Liliana, non avrebbe mai fatto una cosa del genere, soprattutto in quel posto. Senza un biglietto per Veronica, era come una figlia per lei, la figlia che non ha avuto. In prima linea Claudio Serpin, amico intimo di Liliana. Ma io se la vedo, l'ho detto, se la vedo suicidarsi non ci credo, mai più. Ma soprattutto per come abbiamo vissuto negli ultimi paio di mesi, per tutto quello che ci abbiamo detto, per tutto quello che avevamo in procinto di fare. Come può suicidarsi uno? I corridoi del Tribunale di Trieste sono affollati di giornalisti e cineoperatori per il caso che ha incuriosito l'Italia da quando il 14 dicembre 2021 di Liliana Resinovic si persero le tracce. Venne ritrovata il 5 gennaio 2022 avvolta in sacchi di plastica, morta, secondo l'autopsia, per asfissia. Il marito di Liliana, Sebastiano Visentin, non è presente in aula come consigliato dal suo avvocato. Anche lui si è opposto all'archiviazione e così ha fatto il fratello, Sergio, che è uscito dall'aula metà mattina e noi lo abbiamo intercettato nei corridoi. Che cosa si aspetta oggi? Che riaprano il caso? Io auspico questo. È giusto che venga fatto? Sì, per ulteriori indagini che appunto non sono state spiegate. Trieste, Anna Vitaliani, TGR Friuli Venezia Giulia. Voltiamo pagina, successo di pubblico, di sponsor, di contatti social, di ritorno turistico per la penultima tappa del Giro d'Italia, la cronoscalata dell'Ussari, che dopo lo Zoncolan ha raddoppiato il sogno visionario di Enzo Cainero, scomparso a inizio anno. Restano però le incertezze sulla gestione della strada, aperta per la tappa e poi chiusa alle biciclette che vogliono cimentarsi con la salita a Santuario. Il più alto ritorno in assoluto, 13 volte gli investimenti fatti per la tappa dell'Ussari del Giro d'Italia. Questa è la stima presentata dalla Regione, dagli organizzatori a meno di 10 giorni dall'evento, una ricaduta soprattutto in termini di visibilità, grazie a 800 milioni di contatti tra radio, TV e social. Furono 568 milioni l'anno scorso. La tappa che ha definito il Giro, grazie all'impresa di Roglic, venuta in soccorso ad una corsa che era arrivata a Tarvisio stanca, è stato ricordato, tanto che il Giro d'Italia ha rinnovato la fiducia al comitato organizzatore e alla regione. Paolo Urbani del comitato organizzatore. RCS ci aveva già confermato che anche nel 2024 ci sarà assegnata una tappa, nel 2025 poi ci sarà una sorpresa e nel nome di Enzo alzeremo l'asticella. La tappa dell'anno prossimo potrebbe attraversare l'intera regione. Per quello successivo il pensiero non può che andare a Gorizia, Nova Gorizia, capitali europee della cultura. Superata ogni più rosea aspettativa grazie al grande lavoro di squadra, ha detto il presidente Federiga, che ha ricevuto in dono la maglia ciclamino di Jonathan Milan. La fortuna aiuta gli audaci e noi audaci lo siamo stati, le parole di Andrea Cainero. Dietro le quinte, il lavoro di 43 gruppi comunali di protezione civile, con oltre 100 mezzi e 12 associazioni di volontariato. Rimane il rompicapo della chiusura della nuova strada che porta a Lussari. Situazione definita paradossale dai rappresentanti del tessuto economico della valle. Oltre 5 milioni di investimenti regionali, fin dal 2003, per la messa in sicurezza di quel versante. Fondi di protezione civile. L'assessore regionale Riccardi assicura che ci sono state interlocuzioni con la proprietà anche prima della tappa. Oggi in prefettura a Udine un vertice tra tutte le parti coinvolte. Ho sentito dire anche che quella strada sarebbe pericolosa, ma se fosse pericolosa saremmo riusciti a portarci il Giro d'Italia. Ecco, è una storia di burocrazia tutta italiana che io sono certo potrà contare sulla mediazione del prefetto. Udine, Lillo Montalto Monella, TGR, Friuli Venezia Giulia. È lotta all'inquinamento dalla plastica, il tema scelto per la 50ª giornata mondiale dell'ambiente. Oggi in calendario tra le località coinvolte nell'iniziativa c'è anche Muggia, in collaborazione transfrontaliera con Ancarano. Nel porticciolo di San Bartolomeo, in località Lazzaretto, è stata organizzata la pulizia della spiaggetta. Nella lotta alla plastica uniscono le forze la FIPSAS, Federazione Pesca Sportiva, WWF, Speleo Vivarium, OGS, il Liceo Scientifico Galilei di Trieste, ospitati dall'Associazione Dilettantistica Nautica San Bartolomeo in località Lazzaretto, a Muggia, puliscono i fondali e la spiaggetta nella 50ª giornata mondiale dell'ambiente, patrocinata da RAI, Ministero dell'Ambiente, e anche dal Comando Generale della Guardia Costiera. Una decina i sub in acqua per pulire i fondali. I primi a buttarsi sono due ricercatori del WWF per proteggere la pinna nobilis, specie protetta. Prima di fare pulizia è importante individuare ed eventualmente trasferire le pinne nobilis in pericolo per evitare ulteriori perdite di questi esemplari che da 7 anni rischiano l'estinzione a causa di un protozoo patogeno, come spiega Saul Ciriaco, responsabile del monitoraggio dell'area marina protetta del WWF. Hanno trovato molta plastica, usa e getta, e fanno appello ancora una volta per una maggiore attenzione allo smaltimento dei rifiuti. A ripulire il fondale anche 4 studenti del Galilei con brevetto di apnea, guidati dalla loro professoressa di scienze, istruttrice di apnea della FIPSAS, Fulvia Bradassi. Si butta anche Florence Colleoni, ricercatrice OGS armata di telecamera subacquea. L'iniziativa è transfrontaliera grazie alla stretta collaborazione con la società nautica di Ancarano. I volontari sloveni hanno pulito la spiaggia di Punta Grossa fino al confine italiano e poi sono venuti al porticciolo di San Bartolomeo con il sindaco di Ancarano per un breve incontro con il sindaco Polidori e tutte le persone impegnate qui nell'operazione di pulizia. Muggia, Francesca Terranova, TGR, Friuli Venezia Giulia. 12:38, passiamo al meteo. Il cielo è coperto sulla regione, queste le temperature registrate alle 11, a Trieste 19 gradi, il mare calmo con temperatura di 18 gradi, a Pordenone Gorizia 18, a Udine 16 gradi, in Aramontana Tolmezzo 15, Tarvisio 13 gradi e 5 decimi, Forni di Sopra 11, Sapada 10 gradi, Piancavallo 9 gradi e mezzo, in quota sul Monte Lussara e sul Monte Zoncolan 7 gradi, sulla costa Lignano 17, la temperatura del mare di 23 gradi e a Grado 17 gradi e 5 decimi, la temperatura del mare di 19 gradi e mezzo. Le previsioni dell'ARPA: questo pomeriggio cielo in prevalenza coperto con piogge sparse intermittenti da abbondanti a intense, rovesci e temporali sparsi che si presenteranno a più riprese nel corso della giornata. Sulla costa vento da est o sud-est in calo, qualche temporale localmente potrebbe essere anche forte. Domani tempo ancora incerto con nuvolosità variabile, probabilmente un po' più soleggiato su bassa pianura e costa. Saranno probabili rovesci o temporali sparsi, specie al pomeriggio sera, qualche temporale localmente potrebbe essere forte. Questa mattina alla scuola media Pasolini di Rorai Grande a Pordenone sono stati consegnati 125 patentini per l'uso corretto dello smartphone e delle nuove tecnologie ad altrettanti ragazzi e ragazze delle classi prime. Sentiamo l'educatore Matteo Maria Giordano, che coordina il progetto per l'associazione MEC. Il patentino per lo smartphone smartphone è un progetto, diciamo così, di sensibilizzazione e consapevolezza dell'uso corretto degli strumenti digitali, non soltanto dello smartphone naturalmente, ma di tutti quelli che sono i dispositivi che i ragazzi sono abituati ad utilizzare oggi. È un progetto sostenuto dalla Regione Friuli Venezia Giulia, dalla Fondazione Friuli e, per quanto riguarda le scuole del Comune di Pordenone, anche dal Comune di Pordenone, dall'amministrazione comunale, ed è un progetto rivolto alle classi prime. Questo perché i dati che noi abbiamo a disposizione ci dicono che già un buon 80% dei ragazzi di prima media ha un proprio dispositivo per connettersi alla rete, anche perché molto spesso vengono regalati proprio nel periodo della promozione tra la quinta elementare e la prima media. Quindi diciamo che il momento era ideale per poter dare a questi ragazzi tutta una serie di informazioni, di conoscenze rispetto all'utilizzo della rete a 360 gradi, per poi consolidare questi concetti, questi argomenti anche nel corso della seconda e della terza media. Quindi un progetto di comunità, un progetto che vede sicuramente la scuola in primo piano, ma che chiede anche alle famiglie una grande alleanza educativa, proprio perché poi quello che facciamo a scuola trovi una sponda dentro casa. Pordenone, Natascia Gargano, TGR, Friuli Venezia Giulia. Il Comitato regionale per le comunicazioni del Friuli Venezia Giulia, Corecom, nel corso della sua relazione annuale all'Ufficio di Presidenza, ha presentato le attività svolte nel 2022. Il presidente Mario Trampus ha sottolineato il rinnovo della convenzione per la trasmissione di programmi in friulano, la trattazione dei contenziosi con un trend decrescente del numero di istanze di conciliazione, la gestione delle segnalazioni in materia di par condicio nel lungo periodo elettorale e la realizzazione di appuntamenti dedicati ai giovanissimi da proteggere da bullismo e cyberbullismo. Rinnovato per altri 12 mesi l'accordo RAI per la trasmissione di programmi radiofonici e televisivi in lingua friulana, a fronte di 150 ore di trasmissioni radiofoniche e 40 ore di trasmissioni televisive. La convenzione per la trasmissione di programmi radiofonici e televisivi in italiano e in lingua slovena è stata sottoscritta per lo stesso periodo con 4.517 ore di trasmissioni radiofoniche in lingua slovena, 1.667 ore in italiano e 208 ore di trasmissioni televisive in lingua slovena. Ricordiamo che oggi l'Arma dei Carabinieri festeggia i 209 anni dalla fondazione. Alle 18 in Fiera Udine, Padiglione 6, i Carabinieri del Comando Legione Friuli Venezia Giulia celebrano la ricorrenza della fondazione dell'Arma. Questa mattina è stata deposta una corona d'alloro al monumento ai caduti nella caserma di Viale Venezia. Una segnalazione di servizio a Trieste chiusa via del Pucino nel tratto compreso tra via Livia e via Vitalba per permettere un intervento urgente di riparazione sulla condotta idrica. A Cegas, APS AMGA è all'opera già da questa notte dopo la rottura della condotta che si è verificata attorno alle 3. Il maltempo persistente sta complicando le attività di riparazione che procedono mentre l'erogazione idrica è sospesa per le utenze di via del Pucino tra via Livia e via Vitalba e da via Plinio lato Monte. Attivato un punto di approvvigionamento idrico per le utenze coinvolte con una fontanella d'emergenza in via del Pucino all'altezza del civico 19. Il completamento delle operazioni dovrebbe terminare entro la serata di oggi o comunque nel corso della notte. Al ripristino dell'erogazione idrica ha raccomandato far scorrere l'acqua per alcuni minuti fin tanto che torni limpida. Ora la cultura, la scrittrice belga francofona Melino Tombe per la letteratura, l'artista Marco Zanta per la fotografia, lo storico e saggista Carlo Ginzburg per l'avventura del pensiero e nella sezione testimone del nostro tempo l'avvocatessa e attivista iraniana Shirin Ebadi, premio Nobel per la pace 2023. Sono loro i vincitori della 39esima edizione del premio Hemingway, promosso dal comune di Lignano Sabbiadoro con il sostegno della regione e in collaborazione con Pordenone Legge. Il premio, dedicato allo scrittore statunitense Ernest Hemingway, che a Lignano soggiornò nell'aprile 1954, pochi mesi prima del conferimento del premio Nobel per la letteratura, si terrà nella località balneare da giovedì 22 a sabato 24 giugno, con un cartellone di incontri aperti al pubblico per conoscere da vicino ciascun vincitore. L'evento di premiazione è in programma sabato 24 giugno alle 20 al Cinema City. E nel 2023, che celebra i 120 anni della spiaggia di Lignano e ripercorre una vocazione turistica di successo avviata nel 1903 con l'individuazione del perimetro del primo stabilimento balneare, il premio speciale Lignano 120 anni di futuro va all'atleta Antonio Fantin, che ha saputo affrontare, si legge nella motivazione, i sacrifici legati a una rarissima malformazione, alla sua disabilità, trasformandola nel sogno realizzato dei più prestigiosi traguardi sportivi, come l'oro conquistato alle Paralimpiadi di Tokyo 2020. E ora a Trieste per parlare di una struttura ancora poco nota, almeno alle giovani generazioni, il lavatoio di San Giacomo in Monte, che da qualche anno dopo la ristrutturazione viene utilizzato come luogo culturale, tanto che c'è chi gli ha dedicato uno spettacolo teatrale che andrà in scena stasera alle 20, proprio fra le mura della struttura. Il titolo è Lavatrici, la regia è di Elisabetta Agostini, l'autrice che stiamo per ascoltare è Alessia Giani. Questo è uno spazio magico, un antico lavatoio nel cuore del rione di San Giacomo a Trieste, dove appunto una volta si faceva il bucato, adesso è diventato uno splendido museo, ma uno spazio aperto, un cortile che si presta a ospitare serate o anche pomeriggi teatrali, culturali in generale, con presentazioni di libri. La nostra compagnia Teatro Incontro da 8 anni presenta lì una rassegna teatrale. E proprio in base a questo, a un certo punto, ho deciso di scrivere un testo che fosse proprio ambientato lì, immaginando di far rivivere questo luogo non solo come luogo d'incontro o come museo, ma proprio come luogo dove si va a lavare i panni adesso negli anni 2000. Il titolo è Lavatrici. Esatto. Non vogliamo proprio spoilerare completamente lo spettacolo, però di che parla? In buona sostanza, per un fatto che si scopre solo alla fine, quindi non lo spoileriamo, e delle persone si trovano lì a dover fare il bucato adesso negli anni 2000 con olio di gomito, sapone, acqua nelle vasche, quindi lo spettacolo è ambientato proprio nelle vasche. Trieste, Francesca Vigori, TGR Friuli Venezia Giulia. Da questa sera e fino a giovedì 8 giugno tornano al Conservatorio Tartini di Trieste i saggi finali, 4 serate concerto dalle 20:30 nella Sala Tartini per rappresentare tutti gli strumenti e attraversare i più vari compositori, repertori e tradizioni musicali. L'ingresso ai concerti è libero fino ad esaurimento dei posti disponibili. Chi di noi non ricorda con una certa nostalgia gli anni delle elementari dove abbiamo imparato a scrivere, a fare di conto? A Monfalcone la scuola primaria Cuzzi sta per essere demolita, per essere ricostruita, più bella e più grande, ma una maestra ha pensato che agli ex alunni, genitori, docenti, personale, dirigente avrebbero voluto salutare quei muri che dagli anni 60 hanno visto le fatiche di migliaia di piccoli scolari. L'evento con mostra commemorativa ci sarà questo pomeriggio dalle 16:30 alle 18. Ce ne parla Roberta Frascarelli, maestra alla primaria Cuzzi da 22 anni. Abbiamo pensato di dare un ultimo saluto all'edificio, perché poi la scuola noi intendiamo l'insieme delle persone che fanno la scuola, quindi alla fine siamo sempre noi che ci sposteremo da un'altra parte, ma la Cuzzi resta come identità fatta da persone, docenti e bambini. Per cui abbiamo pensato di omaggiarla per gli anni che ci ha ospitato, ripercorrendo un po' a grandi linee, cercando tra gli archivi, tra i ricordi e le testimonianze, fotografie e quant'altro abbiamo conservato nel tempo un po' i momenti più significativi di questa scuola. C'è qualche ricordo particolarmente curioso, interessante? Era una scuola all'avanguardia? Sì, era già una scuola all'avanguardia dal tempo, diciamo, perché è sempre stata promotrice di attività come ad esempio il teatro, è aperta molto alle lingue. Noi infatti tutt'oggi come scuola vantiamo un po' il fatto di essere una scuola di lingua, abbiamo sia la sede del Trinity che del Goethe per quanto riguarda il tedesco, e poi abbiamo ex alunne che sono diventate nostre colleghe, per cui questo è il testimone più bello, insomma un filone che mantiene comunque anche lì un'identità alla scuola, ecco. E poi c'è stato sicuramente il momento dell'intitolazione, perché siamo diventati da una scuola di quartiere che aveva proprio il nome del quartiere Largo Isonzo, ad avere un'identità, e non a caso la scelta di Amelio Cuzzi, che rappresenta un alpino, per noi è importantissima, perché noi abbiamo una collaborazione strettissima con gli alpini. Francesca Vigori, TGR Friuli Venezia Giulia. Passiamo allo sport, iniziando dal calcio. L'Udinese chiude il campionato con la sconfitta, la quarta consecutiva, subita dalla Juventus sull'erba dello stadio Friuli Dacia Arena. È finita 1-0. Abancua, Gessand, Coccetta, Buta, Semedo. L'Udinese di domani, che non si fa travolgere dalla Juventus, ma subisce comunque la quarta sconfitta di fila. Nel primo tempo un'occasione per Beto, prima del tentativo della Juve di qualificarsi per l'Europa League, anche se alla fine la coppa per la vecchia signora sarà la Conference. La traversa di Bonucci è l'occasione migliore della squadra di Allegri, che nella ripresa trova il gol partita con Federico Chiesa. Sentiamo Andrea Sottil, tecnico dell'Udinese. I ragazzi hanno dato tutto, hanno dato assolutamente tutto. Ci tenevamo a fare una partita, nonostante l'emergenza di cuore, di gioco, cercando di andare a giocare contro una grande squadra come la Juventus. L'hanno fatto, quindi non ho niente da recriminare, abbiamo avuto anche delle occasioni. I giovani bianconeri friulani fanno tremare la Juve nel finale, che sfiora il raddoppio con Di Maria. Sottil avrebbe voluto chiudere in modo diverso il campionato, ma ai tifosi dell'Udinese va bene anche così. 12° posto e abbraccio finale soprattutto a chi, come Destiny Udoji, il prossimo anno vestirà un'altra maglia. In queste due stagioni ho dato il massimo per la società, per la squadra. Il bilancio mio è... sono contento di essere cresciuto ancora di più, aver dato una mano alla squadra e nulla, questo. Cosa riserva ora per te il futuro? Il mio futuro adesso è l'Inghilterra, la Premier League, Tottenham, e anche lì sarà una nuova sfida per me. Sebastiano Franco, TGR, Friuli Venezia Giulia. Basket, in semifinale playoff, Forlì domina gara 2 contro una Udine che ora si ritrova a spalle al muro sotto 2-0 nella serie, un passo dall'eliminazione. Ieri sera è finita 83-58. Udine ha retto solo a tratti il primo quarto con un ottimo esposito, l'ultimo pareggio a quota 21, poi un monologo romagnolo. La squadra di Martino stringe le maglie in difesa e approfitta del caos udinese in attacco. Male gli americani. Brisco, che in un'occasione non arriva neppure al ferro da 3 punti e chiude con soli 4 punti, gli fa spalla Terry 2 punti e 2 soli tiri tentati. Il vantaggio romagnolo raggiunge e sorpassa i 20 punti. L'Alpu alza bandiera bianca con un quarto periodo dove non si segna mai, e l'Unieuro che con 2 triple di Radonic va addirittura a più 27. Ultima spiaggia, gara 3, mercoledì al Carnera. Sentiamo le parole di coach Finetti a fine match. È chiaro che adesso sotto 2-0 noi abbiamo il dovere, innanzitutto per noi stessi, per il lavoro che facciamo, per la serietà che ci mettiamo da agosto e per le ambizioni e gli investimenti del nostro club, di crederci. Io sono il primo a credere che si possa provare a mettere in difficoltà la prima della classe, che ribadisco, come ho già detto in serie di presentazione, lo è per un motivo. Quindi sicuramente facciamo tesoro di quello che di buono ha funzionato in gara 1, diverse cose, facciamo tesoro di quello che non ha funzionato in gara 2, ovviamente quasi tutto, e ci presenteremo pronti davanti al nostro pubblico per provare ad allungare la serie e a forzare Forlì a gara 4. E in chiusura torniamo a parlare della Giornata Mondiale dell'Ambiente con un servizio di Martino Villosio sullo speciale televisivo che andrà in onda stasera alle 18 sul canale televisivo 3 della RAI, un speciale a cura della redazione della TGR. Raccontare il territorio ed ascoltare il pianeta, come ogni anno e a 20 giorni da un disastro epocale, lo speciale sulla Giornata Mondiale dell'Ambiente, dalle 18 su Rai 3, avrà un baricentro nei luoghi dell'alluvione in Romagna, in un dramma locale che il mondo ha osservato, solidale con il nostro paese e preoccupato per sé. Per questo lo sguardo si poserà anche altrove e indietro nel tempo, al nord Italia per un anno e mezzo prigioniero della siccità, al ciclone che ha infierito sull'Africa orientale, il cambiamento climatico che spinge a migrare, la collaborazione tra scienze per aiutare le popolazioni e in Italia ritardi e progressi della transizione energetica monitorati da Legambiente, da Vicenza a Catania, le singole buone pratiche di adattamento ai cambiamenti climatici in attesa di un piano nazionale. naturale, il futuro che si coltiva in luoghi di storia millenaria tra speranza ed ecoansia in aumento tra i giovani. Le voci di chi è in prima linea, da Paestum all'Himalaya, in altri luoghi del pianeta meravigliosi e provati. Tutto ciò che abbiamo e che ci resta da non perdere, stasera alle 18 su Rai 3, a cura della TGR. È tutto per questa edizione del giornale radio regionale, in regia Mauro Cumine, Bruno Montevecchi. In redazione ha collaborato Laura Sarasini. Da Maria Spezia e Rita Micoli, grazie per l'ascolto e l'augurio di un buon pomeriggio. Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.